Se almeno qui ci fossi tu, sarebbe tutto più normale. E invece il tempo passa e va sopra un binario sempre uguale. Tutto si complica di più, tutto si perde un po' di più, tutto si limita di più. Quanto rimane senza te per me? Provati a chiedere cos'è una giornata di provincia, incatenata nei perché, quando la noia ricomincia, ogni pensiero vola via sopra un foglietto di poesia, e invece è solo una bugia di noi ragazze che chissà come viviamo questa età. Vorrei bruciare i miei giorni, bruciarli ancora di più e cancellare i contorni di quello che non voglio più. Se almeno qui ci fossi tu, sarebbe tutto più speciale. E invece il tempo se ne va sopra un binario sempre uguale. Quanto rimane senza te per me? Vorrei bruciare le strade, chiese, portoni e caffè, perché ogni volta mi uccide senza di te. Vorrei bruciare i miei giorni, bruciarli ancora di più e cancellare i contorni di quello che non voglio più.